Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, puntata tutta dedicata a retail e grande distribuzione con una serie di casi da raccontare. Scopriamo i segreti e le strategie di un brand simbolo del largo consumo come PepsiCo. Nei giorni dell'avvio di Expo raccontiamo la sfida tutta italiana sul cibo e la ristorazione tra Italy e Autogrill. Analizziamo poi la trasformazione di una delle categorie di punti vendita diffusi più capillarmente. Parliamo delle farmacie e riflettiamo infine su una delle parole simbolo del marketing e della comunicazione per eccellenza, la soddisfazione. Partiamo però dai dati che ci arrivano dall'osservatorio 2015 di ICOM, l'Istituto per la Competitività. Sono dati che ci dicono una cosa in particolare, la riflessione che farà da premessa alla puntata di oggi. I cittadini si fidano più dei supermercati che delle banche o del trasporto pubblico. Il presidente Stefano da Empoli. La fiducia dei consumatori è aumentata rispetto all'anno scorso, in gran parte, se non esclusivamente, è una conseguenza del fatto che c'è una visione insomma un po' più ottimistica rispetto a quella dell'anno scorso in generale, diciamo, sul futuro del paese, e rimangono insomma grosse differenze tra i settori, insomma, per cui si ha grande fiducia nei confronti in particolare della grande distribuzione organizzata, compagnie aeree sono molto aumentate e i servizi classici, diciamo, degli utility, insomma, dalla telefonia all'energia. Confermato, anche se hanno recuperato un pochino rispetto all'anno scorso, la scarsa popolarità di banche, in particolare delle assicurazioni, trasporto pubblico locale, trasporto ferroviario. Insomma, ci si fida più dei supermercati che delle banche e delle assicurazioni, dunque? Assolutamente sì, tutta una serie di siti, insomma, dai forum piuttosto che blog, piuttosto che anche ad esempio siti di comparazione che vengono sempre più usati. Questo è un altro risultato interessante del sondaggio nelle scelte di consumo, tutto questo contribuisce a rendere il consumatore, insomma, più consapevole, insomma, più smart, come abbiamo detto commentando i risultati dello studio. Emerge, insomma, che i social sono sempre più un canale importante di comunicazione tra i consumatori e le imprese. Più del 50% dei consumatori si informa attraverso i social sui prodotti e sui servizi, e un quarto, il 25% circa, segnala, insomma, problemi alle imprese, insomma, su prodotti o servizi di cui si servono, che hanno acquistato, e questo è in netto aumento rispetto a quello che succedeva l'anno precedente. Era il 1984 e il re del pop Michael Jackson si esibiva nello spot per Pepsi, un ingaggio che ha fatto storia e ha segnato la storia del cantante e della bibita. Durante le riprese dello spot successivo, infatti, i capelli del cantante presero fuoco e Michael riportò ustioni su viso e capelli. Quali sono le sfide che il gruppo si prepara oggi ad affrontare nel prodotto, nella distribuzione, nel retail, nella comunicazione? Ne abbiamo parlato con Mauro Porcini, primo Chief Design Officer nella storia della multinazionale, una figura molto trasversale che gestisce e coordina l'immagine del brand da molti punti di vista, dal prodotto al packaging, dalla pubblicità alla strategia digital. Viviamo in un'economia che sta cambiando radicalmente, soprattutto a causa dei social media, e il modo di costruire brand oggi è molto diverso da quello di soli pochi anni fa. Il design ha questo ruolo di raccontare storie, le storie di questi brand attraverso tutti quelli che noi chiamiamo i touch point, quindi dal prodotto al packaging, agli eventi, alle collaborazioni con le varie celebrities. È un passaggio culturale molto profondo, prima di tutto perché il design è nell'output, quindi nel prodotto, nel packaging, negli eventi, nelle manifestazioni, ma è anche nel modo di pensare, quello che gli americani chiamano il design thinking, ovvero la capacità di mettere insieme tutta una serie diverse di discipline, la ricerca e sviluppo, il marketing, consumer insights, e poi far leva sugli strumenti del design, quindi la capacità di prototipare, di visualizzare, per allineare tutte le varie visioni e tutte le varie expertise che ci sono all'interno dell'azienda attorno a un'idea, attorno a un'innovazione, a una soluzione che poi si porta sul mercato. Oggi più che mai nel mondo dei consumi l'innovazione arriva dal basso, per così dire. Molte volte sono i consumatori, gli utenti, i cittadini che portano avanti l'innovazione nella loro quotidianità e i brand li rincorrono. Penso a fenomeni alla sharing economy, alle stampanti 3D, penso alla co-creazione. Questo per una multinazionale che ha una filiera distribuita in molti paesi, una struttura molto pesante, insomma, dal punto di vista industriale, che cosa significa? Sta cambiando tutto il panorama competitivo, il panorama dell'innovazione. Prima di tutto, il consumatore stesso può diventare innovatore attraverso i social media, attraverso siti per esempio tipo kickstarter.com che danno la possibilità di trovare fondi online, attraverso tecnologie che permettono di produrre prodotti a basso costo. Hai citato le stampanti 3D che rivoluzioneranno il mercato in pochissimi anni. Queste grandi multinazionali non competono più solo con altre grandi multinazionali, ma si trovano poi a competere con tutta una serie di imprenditori, startup che talvolta da soli poi non sono irrilevanti per i grandi numeri delle multinazionali, ma insieme possono creare dei problemi sia di market share, ma spesso anche di rilevanza del brand. Quindi rendono dei brand, i grandi brand, più obsoleti o meno rilevanti, ed è molto difficile per queste aziende competere in questo panorama, perché queste startup, questi imprenditori si muovono a una rapidità incredibile, mentre noi abbiamo tutta una serie di strutture per cui è molto difficile muoversi con la stessa tipo di rapidità. Quindi stiamo ripensando i nostri modelli di business, il modo di fare innovazione. Quindi questo sta veramente cambiando il panorama competitivo internazionale. Al contempo poi, e questa è una delle variabili fondamentali del design, il design è tutto fondato sull'ascolto del consumatore, sulla capacità di interagire col consumatore, capirlo profondamente, ma poi in questo caso anche interagire, parlavi prima di co-creazione, interagire col consumatore per trovare soluzioni che siano diverse e innovative. La capacità di visualizzare, prototipizzare, di cui parlavamo prima, durante il processo ci permette di approcciare anche il consumatore stesso, che diventa parte del processo creativo. Perché anche in un settore come il vostro, il food and beverage, l'idea, come dire, disruptive, il category killer, l'Uber della situazione, può arrivare non da un competitor di dimensioni come voi, ma da un piccolo. Assolutamente. Oggi come oggi nel food and beverage ci sono tantissimi piccoli che stanno arrivando sul mercato, soprattutto sul mercato americano. Se si va in un supermercato in America si trovano quantità di bevande e di snacks eccetera eccetera che sono incredibili e continuano a cambiare, a variare. Ci sono già svariate realtà che stanno crescendo in modo considerevole e quindi bisogna capire come relazionarci come azienda con questo tipo di realtà. Anche il retail sta cambiando profondamente, cambia la distribuzione. Gli e-tailer cercano l'affaccio su strada, quindi cercano la vetrina, l'ha fatto eBay, l'ha fatto Google. Allo stesso modo i negozi più tradizionali, o comunque le catene più tradizionali, rincorrono ovviamente l'onda dell'online. Ecco, questo cambia molto gli equilibri dal punto di vista della distribuzione, del contatto con il consumatore. Come vi state muovendo voi su questo scenario? Cosa state pensando in termini di multicanalità, di ibridazione dei canali? Beh, ci sono opportunità in tutti e due i sensi. Nel rapporto con i clienti, da una parte col cliente tradizionale, il retail tradizionale, dobbiamo capire come attrarre il consumatore ancora una volta nello spazio fisico del retail, quindi come rendere l'esperienza con i nostri brand unica all'interno di quel contesto. Con invece il retail online bisogna capire come aiutarli a creare delle esperienze che siano significative per gli utenti con i brand. Quindi ci sono sfide, opportunità in entrambi i settori, e poi dopo Ovviamente ci stiamo chiedendo come andare noi direttamente dal consumatore, ma come puoi immaginare ci sono anche degli equilibri delicati con i nostri clienti stessi, quindi sono delle dinamiche in divenire. Stiamo creando dei team dedicati a questo tipo di nuova realtà, ma è un qualcosa veramente che nessuno ha ancora decifrato probabilmente, perché come dicevi prima, il digital, l'e-commerce ha bisogno dell'esperienza fisica e quindi ci sono realtà in cui il consumatore va a provare il prodotto, a usufruire del servizio nel retail tradizionale e poi dopo tira fuori il telefonino e compra online mentre è nel retail tradizionale. La Consumer Electronic ha sofferto tantissimo di questo negli ultimi anni, ma sta arrivando un po' ovunque. Io vivo a New York e ormai la spesa si fa quasi completamente su FreshDirect.com, adesso ne stanno nascendo tanti altri e sarà interessante vedere il futuro, le tecnologie che arriveranno sul prodotto stesso, quindi non so, degli label, smart label, quindi prodotti soprattutto commodity tipo l'acqua minerale o la carta igienica, si riordineranno da soli. Quando saranno finiti comunicheranno con una centrale o col tuo frigorifero, se sono nel frigorifero, una centralina in casa e si riordineranno. Quindi come creare brand engagement in questa nuova realtà è una delle grandi sfide di tutte le grandi aziende oggi come oggi. Venga, l'aiuto io. Scendiamo e via, si parte. Incrociamo la vedova del tamburo della banda. Da quando lui è morto porta la giuba di suo marito. Attento, opla, l'insegna della macelleria equina ha perso un orecchio. Il signore che ride è il marito della fioraia. Ha delle rucchette maliziose intorno agli occhi. Da pasticcere ci sono le caliche Piero Gourmand. Sente che profumo! È Peppone che fa gustare i suoi meloni ai clienti. Assaggiate i miei meloni, venite! C'è Marion che fa il gelato alle mandorle. Ora passiamo davanti alla salumeria. 79 il prosciutto con l'osso, 45 il guanciale salato. Ora il negozio dei formaggi, 12,90 il picadon dell'Ardèche, 23,50 il cavicù del Poitou. Dal macellaio c'è un bambino che guarda un cane, che guarda i polli arrosto. Ecco, siamo davanti al chiosco dei giornali, davanti alla fermata della metropolitana. Io la lascio qui, arrivederci. Riportare la spesa, quella di prodotti alimentari, nel salotto di Milano, territorio per anni delle sole vetrine di moda. Questo è l'obiettivo del mercato del Duomo, nuovo tempio del gusto firmato Autogrill nel cuore del capoluogo lombardo. 3.000 metri quadrati per 4 livelli, dalla materia prima al piatto cucinato, dal mercato appunto dei prodotti locali selezionati dall'Università del Gusto di Pollenzo al bistrò artigianale fino al ristorante curato dalla scuola dello chef abruzzese Nico Romito, 3 stelle Michelin. Esordio nel weekend di apertura di Expo 2015, in molti ci vedono la sfida a Italy. Il format è un test per la nuova filosofia slow dell'azienda, all'insegna dell'alleanza con il territorio e del recupero dei mestieri artigianali. Ce lo ha confermato Ezio Ballarini, direttore marketing di Autogrill. Una location storica per la città, ma storica anche per Autogrill, perché qui aprì Angelo Motta nel 1928, per cui per noi questo è un luogo simbolo. Abbiamo scelto questo luogo simbolo per creare questo nuovo formato, formato che noi in Bistrò abbiamo già aperto in altre città, ma che vuole rappresentare quello che per Autogrill è il futuro del mondo del viaggio. Quindi non solo prodotto, ma esperienza, cultura del prodotto, cultura della preparazione. Qui ci sono degli artigiani, c'è chi fa il pane, c'è chi fa la pasta, ci sono dei macellai, ci sono dei pasticceri. Quindi riportare al centro dell'esperienza del consumo il prodotto e come viene realizzato. È un laboratorio perché qui continuiamo a inventare e continueremo a inventare per i prossimi anni per poterlo poi portare in altre parti, non solo italiane ma anche del mondo. Noi qui prevediamo di poter ospitare 3 milioni di clienti all'anno in questo edificio. Piazza del Duomo è il salotto di Milano e ci piacerebbe che questa fosse un po' la cucina dei milanesi. Ogni giorno da Piazza Duomo, fra milanesi e turisti, passano 30.000 persone. L'architetto Michele De Lucchi, che ha firmato il progetto, pensa a loro quando parla di uno spazio storico restituito alla città. Questo è un palazzo storico, meraviglioso, molto amato dai milanesi e dagli italiani in generale. Siamo dentro alla Galleria Vittorio Emanuele di Milano. Giuseppe Mengoni, che l'ha progettata come un simbolo della cultura e della tecnologia. quando è stato progettato questo era veramente un edificio all'avanguardia. I vetri laminati che coprono la galleria erano appena stati inventati ed erano disponibili sul mercato per la prima volta. È un edificio che ha un valore storico importante. Degli spazi che erano privati, dove non poteva entrare nessuno, sono a questo punto invece diventati pubblici e a disposizione di tutti. Insieme alle banche è la categoria che ha a disposizione più spazi retail sul territorio. Parliamo delle farmacie che adottano il modello 2.0. Come? Lo scopriamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Essere e Avere. Ma quanto sono belle quelle signore anziane che vanno in farmacia, soprattutto quelle signore che quando parlano sbagliano i finali. Scusa, to. Mio marito soffre di diabete. In farmacia c'è chi cerca lo specialista. Tra sé tu dici, senti, muri su uvizi e fumà. Ma voi fumate tanto? Ma fumo una sigaretta dopo un caffè. Vabbè, ma una sigaretta dopo un caffè non è niente. Oh cazzo, faccio pure 100 caffè ogni giorno. Focus sui trend. Le farmacie tra crisi e nuove norme, prime fra tutte le liberalizzazioni che hanno segnato l'ingresso nella grande distribuzione. Anche le farmacie, dicevamo, in questi anni si sono dovute reinventare, sperimentando nuove formule che incontrano il retail, i servizi, la consulenza sulla salute e il benessere. Oggi ci concentriamo proprio su questo settore come caso simbolo delle trasformazioni dei punti vendita, tenendo presente che le farmacie, insieme alle agenzie bancarie, sono la categoria che ha a disposizione il maggior numero di spazi retail sul territorio, quindi di vetrine, a stretto contatto con i consumatori e con i cittadini. Ci facciamo raccontare lo scenario di riferimento, come sempre, dai ricercatori di Future Concept Lab. Luisa Schiero, ben trovata. Anche a voi, Maria Luisa, e anche a tutti gli ascoltatori. Buon pomeriggio. Allora, da dove partiamo? Allora, direi di partire subito da alcuni casi dall'Italia e dal mondo. Il primo caso è la farmacia PillPack, Stati Uniti, New York. Questa farmacia ha ideato un servizio completo, dal confezionamento personalizzato alla consegna a domicilio e addirittura un refill settimanale o mensile in base alle esigenze, ovviamente, basato sulle ricette del medico. Quindi i medicinali che vengono prescritti sono poi consegnati direttamente a casa in confezioni che contengono molto specificate le dosi che si devono assumere, giornaliere o meno. Quindi a questo punto i farmacisti di PillPack possono da un lato curare direttamente le scorte di ogni paziente, evitando poi il rischio che possa un po' mancare magari una somministrazione, ed essendo tutto automatizzato viene lasciato ai medici e ai farmacisti più tempo per dialogare con i pazienti, considerando che c'è un sostegno specialistico, chiaramente online o telefonico, garantito 24 ore al giorno per 7 giorni su 7. Quindi un super servizio personalizzato per il paziente. Pensiamo magari anche ai pazienti anziani che con la gestione delle pillole, insomma, a volte se non hanno vicino qualcuno che li cura vanno un po' in crisi. Sì, ecco. Soprattutto appunto se sono soli, come stai dicendo tu, assolutamente verissimo. Sempre negli Stati Uniti la Stanley's Pharmacy. Per la realtà americana basata sui drugstore, diciamo su questa tipologia, si tratta di una sorta di tuffo nel passato. Stanley è l'ultimo di una generazione di farmacisti di origini indiane e dopo aver lavorato in diverse farmacie ha scelto di aprire questa farmacia che lui chiama di quartiere, contro appunto il modello più spersonalizzato del drugstore, all'interno del quale addirittura, pensate, c'è un'area ristoro salutista dove si può anche sostare e chiacchierare col farmacista. Quindi un recupero anche della funzione sociale, di prossimità, proprio di territorio della farmacia. Sì, se dovessi dare una sorta di definizione di queste tipologie di farmacie, le chiamerei reti di sostegno social, perché sono farmacie che da un lato conoscono bene le specificità socioculturali del territorio in cui sono posizionate e quindi diventano un punto di riferimento per il quartiere o anche addirittura per le community che sono presenti in questo territorio. È molto interessante il fatto che rappresentino una sorta di ponte fisico-virtuale all'interno dei vari sistemi sociali. sanitari nazionali e le organizzazioni pubbliche, private e cittadini. Questo è uno dei modelli che voi, me li hai anticipati Luisa, avete identificato proprio per l'evoluzione delle farmacie del futuro, per così dire. Quali sono gli altri? Allora, vediamo per il secondo modello le catene di farmacie Walgreens, che attivano una collaborazione con TaxRabbit, che è un'azienda che gestisce un mercato di servizi mobile, quindi in 19 città degli Stati Uniti, quindi attraverso il cellulare si possono ordinare tutta una serie di servizi. Grande successo per esempio hanno le consegne a domicilio dei farmaci durante il periodo del picco influenzale invernale. Anche in questo caso è vero che risolve un servizio, però specificamente attraverso la tecnologia esclusivamente, piuttosto che i droni interessantissimo. Qui chi è il futuro? Probabilmente a San Francisco, sperimentazione nel quartiere della zona di Mission, non a caso perché sono presenti abitazioni basse e pochi alberi, alcuni droni per il costo di $1 ti consegnano a domicilio i farmaci che hai ordinato. Quindi in questo caso la farmacia che va incontro a quelle che sono le istanze più innovative, pensiamo appunto a TaskRabbit, è una delle piattaforme simbolo della sharing economy, mette in contatto secondo il modello peer-to-peer, no? Quindi cittadino, utente per il disbrigo delle commissioni di tutti i giorni, in questo caso quindi anche per la consegna dei farmaci. Siamo all'ultimo modello, Luisa. Perfetto, torniamo invece in Italia, perché mi fa anche molto piacere oltretutto mostrare casi dove in effetti anche qui c'è sperimentazione, e a Roma una farmacia macedonia si chiama, ha ideato questa piattaforma, multipiattaforma anzi, che si chiama PharmaFace, che è sia online che mobile, in cui è possibile a cui viene offerta consulenza via web, tutorial, video e anche la possibilità di chiedere, colloquiare direttamente via Skype piuttosto che attraverso domande, per ricevere informazioni su domande rispetto alla salute ma anche alla bellezza per esempio. Però certamente da questo punto di vista gli Stati Uniti tornano a essere interessanti, per cui per esempio la sperimentazione all'interno della catena di Walmart con dei chioschi interattivi, si chiamano Solo Health Station, dove le persone possono gratuitamente oltretutto e autonomamente effettuare test della vista, della pressione, del peso, della massa corporea. Quindi ecco, in questo caso il modello più vicino alla realtà italiana, no? Lo dicevi anche tu prima, quindi la consulenza anche scientifica del farmacista, questa vicinanza anche proprio all'approfondimento delle tematiche della salute. Sì, assolutamente, e tra l'altro interessante il fatto che la tecnologia è molto versatile in questo settore, perché da un lato può semplificare, può farti approfondire e poi diventare realmente un supporto anche di consulenza, quindi sì, assolutamente, è un laboratorio in questo caso, quasi mi viene da dire che la farmacia, questo tipo di farmacia diventano. Ci prepareremo in questo modo alle farmacie del futuro, che sono punti di osservazione, confermamelo Luisa, interessanti per vedere l'evoluzione proprio non solo del settore ma degli spazi retail in genere. Sì, assolutamente, come dicevi giustamente tu prima, sono oltretutto la capillarità sul territorio è un po' costretto, anche come se pensiamo appunto, come dicevi, anche le banche, a ripensare, a rivedere il proprio futuro. Certamente, ecco, mi viene da dire, è vero, la tecnologia è importante, però va assolutamente recuperato ed enfatizzato in ciascuno di questi modelli però il ruolo della relazione personale all'interno della farmacia. C'è una tradizione anche di competenza e di così capacità che viene sicuramente riconosciuto alle nostre farmacie, e forse giustamente il fatto che si stia creando per esempio un canale parallelo delle parafarmacie è proprio un segnale di questa cosa che sto dicendo. Luisa Schiaro, grazie, alla prossima. Arrivederci. Il consumautore. Siamo alla riflessione finale sulle parole chiave del marketing e della comunicazione. Sono le parole che condensano le grandi trasformazioni in atto nel mondo dei consumi. A guidarci c'è, come sempre, il nostro ospite fisso, Francesco Morace. Ciao Francesco. Ciao Maria Luisa, buongiorno ai radioascoltatori. La parola di oggi è, per così dire, un cult di tutti i manuali di marketing. È un concetto intorno al quale si condensano oggi, direi, molti fenomeni che raccontano quello che ormai è diventato diventato il protagonista della scena dei consumi, il consumautore, appunto, dalla definizione con cui abbiamo voluto dare il titolo a questa rubrica, Francesco. Sì, è la soddisfazione che è diventato pilastro del marketing negli ultimi decenni, perché la customer satisfaction è giustamente diventata per tante aziende la linea e l'orizzonte per il successo nel business. Quello che oggi è necessario fare è aggiungere al tema della soddisfazione questo grande mondo della felicità, che molto spesso non è facilmente misurabile in termini di soddisfazione, perché la soddisfazione è legata ad un'aspettativa. L'aspettativa è su prodotti che tu già conosci, e allora quando invece le aziende affrontano l'innovazione non possono più misurarne la soddisfazione, perché è qualcosa di completamente nuovo, e allora dobbiamo cambiare i paradigmi e dobbiamo osservare, mentre i consumatori e i consumatori hanno la loro esperienza, e cercare di comprenderne i momenti di felicità. È una visione in qualche modo più antropologica del mercato, correggimi se sbaglio, c'è chi parla di human satisfaction, c'è chi dice i modelli B2B, B2C non hanno più senso come definizioni, si dice human to human adesso. Sì, è antropologica, è psicologica, sicuramente l'economia classica aiuta meno, no? Da questo punto di vista, dobbiamo ragionare su esperienze inaspettate. Se noi pensiamo ai prodotti che hanno avuto successo, anche ai servizi che hanno avuto successo negli ultimi 5 anni, da Facebook agli smartphone, nessuno avrebbe potuto immaginare queste esperienze prima, no? Quindi non avevano delle aspettative i consumatori su questo, eppure oggi sono parte della nostra vita, hanno cambiato la nostra esperienza, appunto, antropologica. Quindi è necessario probabilmente nelle aziende avere una visione più ampia e utilizzare discipline nuove anche nelle tecniche classiche di marketing. Ecco, lo accennavi poco fa, quando si ha a che fare con la felicità, con le emozioni, comunque c'è un problema di misurazione. Sì, la customer satisfaction è stata misurata per anni in modo molto raffinato, e ripeto, bisogna continuare a farlo, guai a non farlo, ma dobbiamo imparare anche a ragionare su dimensioni che sono più difficilmente misurabili, però ad esempio sono sganciate anche dal prezzo, no? Il prezzo è stato per anni la grande variabile nella customer satisfaction, cioè mi aspetto che un prodotto sia più buono e costi meno. Oggi sui grandi prodotti innovativi è anche difficile posizionare nella testa dei consumatori il prezzo e il valore, e quindi c'è tutta una nuova avventura da affrontare. Grazie Francesco, a domenica prossima. Grazie a te. E grazie anche in regia a Valeria Bernardi. Finisce qui questa puntata di Essere Avere, riascoltabile e scaricabile come sempre dal nostro sito sezione programmi, la trovate anche sulla nostra pagina Facebook insieme a tutti i contributi aggiuntivi, in attesa di risentirci domenica prossima alle 15. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.